Sono con Nicola Pianzola della compagnia Instabili Vaganti in occasione della nuova edizione di Performazioni che dal 9 al 17 settembre metterà in scena spettacoli, concerti, incontri con anche ospiti internazionali a Bologna e al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno. Grazie Nicola di essere qui ai nostri microfoni. Grazie. E insomma raccontaci un pochino gli intendimenti soprattutto di questa rassegna. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa undicesima edizione è Il cerchio in espansione, The Circle in Expansion, ed è davvero un cerchio che si espande un po' a tutto il mondo, perché riusciamo a portare nella programmazione del festival molti degli incontri speciali come compagnia caratterizzata da una circuitazione mondiale dei nostri spettacoli, dei nostri progetti. Abbiamo incontrato quest'anno nell'ambito di un macro progetto che si chiama Beyond Borders, appunto andare oltre i confini. Siamo andati oltre i confini per portare qui sul territorio di Bologna, della città metropolitana, in particolare nel laboratorio San Filippo Neri, Pieno Centro, e il Teatro Laura Betti a Casalecchio di Reno, ma anche il nostro spazio, il Live Performing Arts Center alla Barca, diversi artisti, con un focus, potremmo dire, sull'India, perché è uno dei paesi con cui abbiamo lavorato di più quest'anno in questo progetto. La programmazione degli eventi si apre il 9 settembre con un evento speciale, Tezzeo Sisters in concerto. Le Tezzeo Sisters sono delle cantanti folk tradizionali naga, della musica naga, è una musica del Nagaland, una regione a nord-est dell'India molto particolare, una regione caratterizzata ancora da una struttura tribale, divisa in 16 tribù, quindi con una cultura molto particolare e molto forte, e loro sono per la prima volta in Italia e in Europa a presentare questo concerto. E raccontavi prima anche che è stato particolarmente difficoltoso, diciamo, asportarle dal Nagaland per farle arrivare qua. È molto difficile ottenere il visto, non si tratta semplicemente di uscire dall'India, ma si tratta di uscire da una regione particolare, purtroppo caratterizzata anche da delle tensioni politiche, purché al confine con la Birmania, e quindi con una diversità culturale anche molto forte rispetto ad altre nazioni dell'India, che è un territorio talmente esteso che può presentare degli attriti culturali. Quando noi siamo stati in Nagaland a dicembre dell'anno passato a lavorare con questi artisti, non sono mancati episodi di tensione, coprifuoco, eccetera, però proprio per questo abbiamo deciso di portare questi straordinari artisti in Europa e far conoscere la cultura naga, poco conosciuta anche qui in Italia e a Bologna in questo caso. Poi proseguiamo il 10 settembre il nostro focus sull'India con uno spettacolo di danza classica indiana, dell'arte classica Bharatanatyam. Si chiama Dancing for the Gods, Danzando per le Divinità. È uno spettacolo della danzatrice indiana Anuradha Venkatraman, che tra l'altro collabora con noi a una coproduzione di cui parlerò a brevissimo. Il suo spettacolo è seguito da Incomunicante, una performance di danza di Elena Copelli. L'11 settembre alle 11, sempre in laboratorio San Filippo Neri, faremo un po' il punto su questo progetto Beyond Borders con un convegno teorico e pratico sul nostro progetto. Interverranno degli ospiti, dei partner italiani e stranieri, ci saranno anche dei momenti condivisi col pubblico e con i partecipanti del convegno, dei momenti che le Tezzeo Sister faranno di canto, delle masterclass, in modo da tenere questa riflessione sul progetto non solo a livello teorico e in video, ma anche di condividerla con il pubblico in forma pratica. Sì, perché anche un appuntamento vedo di 6 ore come arco di tempo, quindi c'è modo di trasmettere qualcosa. Sì. Anche a livello, per così dire, didattico. Esatto, dalle 11 alle 17, quindi facciamo una panoramica su quello che è stato il progetto, presentiamo i partner, i paesi in cui siamo stati, e poi invitiamo chi assiste, gli uditori al convegno, a alzarsi in piedi, abbandonare la propria sedia per condividere lo spazio scenico con artisti quali Anuradha Venkatraman, che li coinvolgerà in una breve masterclass di danza indiana, o le Tezzeo Sisters, li introdurrà a questo canto particolare del Nagaland. Questa è proprio la nostra poetica, condividere con lo spettatore il nostro lavoro, renderlo partecipe dei processi creativi. Il 14 chiudiamo gli appuntamenti, 14 settembre in oratorio, con Kashimashi, spettacolo di Teatro Nucleo con Natasha Chertok, mentre invece il 17 settembre c'è l'evento di chiusura di questa edizione del festival, un evento che alle 21 sarà in scena al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, Dante Beyond Borders, una coproduzione con l'India, coprodotta dall'Istituto Italiano di Cultura di Mumbai, dove come compagnia Instabili Vaganti, con la regia di Anna Dora Adorno, abbiamo coinvolto Anuradha Venkatrama, la danzatrice classica indiana, che prima ha lavorato con noi in video durante la pandemia a distanza, realizzando 7 opere video per il web. E poi lo scorso anno in India, a novembre, abbiamo lavorato nella sua città, Bangalore, per creare lo spettacolo dal vivo, cioè portare il lavoro in video sulla scena. Dopo il debutto in India abbiamo lavorato tantissimo per riuscire a portare qui Anuradha e presentare per la prima volta in Italia questo spettacolo che unisce Dante all'India. Infatti è uno spettacolo molto interessante che suscita molte curiosità, perché si tratta di trovare delle connessioni tra la Divina Commedia e la cultura indiana. Una di queste, che accennavi prima, è il Gange. Il Gange per Dante rappresentava l'Oriente. Quando Dante si riferiva proprio al sorgere del sole, proprio ai momenti temporali della giornata che descrive nel suo viaggio, quando parla dell'Oriente nomina sempre il Gange. Però Dante era anche affascinato dalla cultura, cioè ci sono molti riferimenti, la cultura animista, indù, come il concetto dell'albero della vita, per esempio nel Purgatorio, che abbiamo indagato moltissimo negli episodi realizzati con Anuradha. Infatti il fiume è anche molto presente nelle nostre opere video, proprio l'acqua come forma di purificazione, una serie di gesti proprio che Dante compie anche nel Purgatorio, bagnandosi la fonte con dei giunchi, ecco, sono tutte azioni rituali presenti in quella cultura che abbiamo ripreso anche nel nostro lavoro. Sì, questo è molto interessante anche perché sono collegamenti insospettabili di primo acchito, perché sembriamo due culture totalmente differenti, invece non siamo proprio totalmente differenti, siamo lontani, distanti anche geograficamente, ma dei punti di connessione ci sono. Sì, tra l'altro Dante colloca il paradiso terrestre in un territorio che potrebbe essere l'India, dagli studi che abbiamo fatto. Quindi proprio il paradiso terrestre lui lo vede nell'India, geograficamente. A Latere ci sono 4 percorsi formativi che sono partiti il 5 settembre, ma che si svolgeranno alcuni di essi anche a Bologna nei prossimi giorni. Sì, parto da quei percorsi che sono ancora aperti alla partecipazione che sottolineo è gratuita. Abbiamo fatto un enorme sforzo quest'anno per tenere non solo quasi l'intero programma gratuito, tutti gli spettacoli in oratorio sono a ingresso gratuito, l'unico spettacolo con un biglietto ma molto contenuto e simbolico è il Teatro di Casalecchio per l'evento Dante Beyond Borders, siamo riusciti a tenere anche questi percorsi formativi gratuiti, perché sentiamo il bisogno di condividere di nuovo la pratica teatrale in presenza, continuare a fornire alta formazione, per cui è ancora possibile partecipare al percorso che l'8 settembre alle ore 11 all'Oratorio San Filippo Neri Natalie Menta, attrice storica del teatro Potlatch, terrà sulla voce in teatro, una masterclass dedicata all'utilizzo della voce per l'attore in teatro. È ancora in corso il workshop di danza indiana tenuto da Anuradha Venkatraman, Gestures and Beyond, quindi andare oltre i gesti, ed è proprio un percorso di introduzione a questa affascinante arte del Bharatanatyam. È un workshop che è iniziato ieri, 6 settembre, e va avanti fino all'8 di settembre. Parte oggi, 7 settembre, il percorso di teatro danza tenuto dalla compagnia catalana Sargantana, che sarà un percorso in site specific, negli spazi del treno della barca, perché fa parte di un nostro progetto Dancing in the Train, che si inserisce nel contesto della città che danza, del bando PON Metro, che quindi realizzeremo fino parte ora e andrà avanti tutto l'anno prossimo. Mentre si è conclusa ieri il workshop del Teatro del Lemming diretto da Massimo Lunaro. Benissimo, ti ringrazio di tutta la spiegazione di questa interessante rassegna che avremo occasione di vedere tra Bologna e Casalecchio. Per ogni dettaglio possiamo rimandare al sito instabilivaganti.com. Grazie mille, vi aspetto per formazione.